Vetta meridiana del mondo. Si dice che la realizzazione di San Petronio segni la fine di un'era, quella di una filosofia progettuale, il gotico, legata all'esoterismo, per lasciare il passo ai temi rinascimentali, all'umanesimo e ai principi del progresso scientifico. Non può essere un caso, quindi, che proprio all'interno della basilica sia presente la più grande meridiana del mondo. Strumento che si distinse per la straordinaria precisione e accuratezza e per le possibilità che offrì agli astronomi dell'epoca di effettuare alcune misurazioni con una precisione mai vista prima. Sebbene una meridiana sia uno strumento per la misurazione del tempo basata sulla posizione della Terra rispetto al Sole, grazie alla meridiana di San Petronio si poté valutare anche l'obliquità dell'eclittica, il percorso apparente che il Sole compie in un anno rispetto alla sfera celeste, fornire dati sulla rifrazione e misurare persino il diametro del Sole. Pare che la meridiana di San Petronio sia così precisa che per tradizione gli orologiai di Bologna vi si recassero a mezzogiorno per sincronizzare i loro orologi. A realizzarla nel 1655 fu l'astronomo Gian Domenico Cassini, che al tempo era un docente presso l'Università di Bologna. All'interno della basilica era già presente una meridiana. Era stata tracciata dal domenicano Egnazio Danti nel 1575 per verificare la durata dell'anno in vista della riforma del calendario, di cui fu promotore il papa bolognese Gregorio XIII. Per il suo contributo all'astronomia, Danti era stato nominato cosmografo pontificio ed era divenuto membro della commissione istituita per riformare il calendario. Cassini, dunque, venne incaricato di ampliare la meridiana di Danti. Per funzionare, infatti, una meridiana tracciata in un luogo chiuso ha bisogno di un foro d'entrata per la luce solare, detto foro gnomonico. Ma durante i lavori di ampliamento della basilica ci si rese conto che la meridiana di Danti avrebbe smesso di funzionare, perché il muro su cui era stato praticato il foro sarebbe stato demolito. Cassini posizionò il foro gnomonico a 27 metri di altezza, sulla quarta volta della navata sinistra. È possibile vederlo chiaramente anche se ha un diametro di appena 27 mm. L'astronomo stabilì altresì che la lunghezza della linea meridiana fosse misurata in rapporto al diametro terrestre, per la precisione un 600 millesimo, anticipando di fatto quanto avvenne alla fine del Settecento, quando fu definito il metro come unità di misura con le stesse modalità. Con i suoi 66,8 metri di lunghezza, questa meridiana è la più lunga del mondo. La linea meridiana fu tracciata incastrando una lamina di metallo, inizialmente ferro, poi ottone, tra le lastre di marmo del pavimento. Quotidianamente, a partire da circa un'ora prima del mezzogiorno locale, i raggi del sole iniziano a filtrare dal foro gnomonico, proiettando un piccolo cerchio luminoso sul pavimento della chiesa. A mezzogiorno, il disco di luce interseca la linea sul punto in cui è indicato il giorno in corso, anche se ovviamente questo è possibile soltanto se è una giornata di sole. Una curiosità. Il disco di luce riproduce i contorni del sole al punto che, nell'agosto del 1999, all'interno della basilica, è stato possibile osservare il fenomeno dell'eclissi. In quell'occasione il dischetto si è via via trasformato in una falce. Nell'archivio di San Petronio sono conservati i documenti che attestano le note spese relative alla realizzazione della meridiana, dal fabbro che si occupò della linea metallica, al marmista per il marmo di contenimento, fino al pittore che dipinse il sole che decora la volta intorno al foro gnomonico. Nel suo complesso, l'opera venne a costare 2.000 lire, corrispondenti a circa 600.000 euro attuali. Il compenso di Cassini fu di 500 lire. Per i suoi meriti scientifici, Cassini venne chiamato a Parigi nel 1666 per assumere il ruolo di astronomo di corte presso l'Accademia Reale delle Scienze. Ispirandosi al suo lavoro, nel 1788 l'astronomo Ferdinando Messia costruì una meridiana, lunga circa la metà di quella di Cassini, all'interno del complesso monumentale di San Michele in Bosco, attuale sede dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Petronio,